Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. Chiaramente in questo spazio prosegue la nostra cronaca dell'emergenza che, come avviene ormai da settimane, decliniamo nel mondo della logistica, un comparto che in questa situazione dimostra ancor di più la sua funzione fondamentale per garantire al paese di andare avanti. Pensiamo agli approvvigionamenti per gli ospedali, al flusso dei beni di prima necessità. Un comparto retto da donne e uomini schierati in prima linea, costretti ad operare spesso in condizioni molto rischiose. In questa puntata raccogliamo varie testimonianze. Iniziamo con quella di Patrizio Ricci, che ci parla da Bergamo, una delle zone più colpite dalla pandemia. Patrizio Ricci è il presidente di CNA Fita, è un imprenditore, è collegato con noi. Buongiorno Ricci. Buongiorno ai radioascoltatori. Allora, innanzitutto, nella sua azienda ci sono casi di autisti contagiati? Dei nostri dipendenti circa quasi una decina hanno avuto sintomi febbrili, perciò si sono autoisolati a casa. A nessuno viene fatto il tampone, perché poi il tampone dalle nostre parti, colpite duramente, viene fatto a quelli che poi vengono ricoverati. Ecco, in questa situazione drammatica ci racconti come la sua azienda in generale, le imprese della zona di Bergamo, riescono a garantire i servizi di trasporto, quei servizi che, come abbiamo detto, oggi più che mai sono fondamentali per il paese. Ricci. Guardi, noi siamo in quella fascia dove dobbiamo mantenere un certo approvvigionamento. Noi facciamo raccolta latte, serviamo con la carne tutto un sistema di supermercati che riguarda l'Emilia Romagna e la Lombardia, caseifici, perciò abbiamo, sotto un certo punto di vista, detto a chi si poteva fermare fermiamoci, e perciò della settantina di dipendenti che abbiamo, considerate che una quarantina sono fermi. Questo è un po' l'obiettivo che siamo riusciti a darci. Abbiamo alcuni che non si possono fermare. Per questi cerchiamo di avere un turnover molto, molto presente, nel senso che li teniamo costantemente monitorati per riuscire ad avere da loro quelle risposte, in caso di innalzamento febbrile o di uno stato di malessere, uno scambio. Molto difficile. Qui c'è una cosa che vogliamo dire: ci mancano le mascherine, ci mancano i guanti, purtroppo non riusciamo a reperirli, e questo effettivamente ci mette, sotto un certo punto di vista, in difficoltà. Stiamo cercando di far utilizzare lo stesso veicolo, lo stesso autista. Di conseguenza, quando bisogna cambiare, bisogna dargli un riposo, utilizziamo un altro veicolo, cioè l'autista utilizza il proprio veicolo e non utilizza il veicolo di un altro dipendente, per cercare di non diffondere questo virus, se ce ne fosse in azienda. Quello che chiediamo è che però alle aziende dove andiamo, e sento anche gli altri colleghi, dove andiamo a lavorare, ci sia della collaborazione, perché isolare dei veicoli 2, 3, 4 ore nei piazzali prima dello scarico, effettivamente, dove non ci sono bagni, dove non ci sono posti dove uno si possa, fermare un attimo, effettivamente questo lascia un po' cadere le braccia, perché ci si sente sempre estraniati da un concetto, comunque da qualcosa che sta succedendo in questo momento, come se il mondo del trasporto sia il veicolo che trasporti anche il virus. E non è questo. Noi stiamo facendo uno sforzo incredibile nel mantenere, perché stiamo trasportando gli alimenti, stiamo trasportando quello che, per quanto ci riguarda, per esempio, quello che riempie gli scaffali, quello che mantiene comunque gli scaffali pieni, e perciò dovremmo essere, non dico tutelati, per l'amor di Dio, perché a quello ci stiamo pensando noi, però almeno un po' di riconoscenza non farebbe male. Grazie Ricci per la sua testimonianza. Guardi, usciremo da questa cosa, usciremo insieme, perché insieme di sicuro ce la facciamo. Forza che ce la facciamo. Sicuramente, forza a tutti, grazie. Patrizio Ricci, presidente di CNA Fita, ci ha parlato da Bergamo. Ora in Emilia, nel Modenese, Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti. Buongiorno Genedani. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sempre vista dagli autotrasportatori, la situazione dalle vostre parti, Genedani. purtroppo la situazione è difficile. Dopo la sanità, l'autotrasporto in prima linea. Stiamo lavorando come autotrasporto tutti, cercando di fare i salti mortali per mantenere quello che è il flusso delle merci, ma nel contempo con grandi difficoltà che stiamo affrontando giornalmente, con l'appoggio anche del governo, che alcune cose, alcune richieste che sono state inoltrate sono state, diciamo, esaudite. Volevo fare anche un altro accorato appello a tutti i colleghi e, come si dice dalle mie parti, teniamo botta, teniamo duro, e un grazie a tutti. Per le imprese artigiane del settore, provando a guardare oltre l'emergenza, il futuro fa ancora più paura. Molte imprese erano già in grave difficoltà. L'ultimo decreto del governo prevede aiuti, ma certamente rischiano di non farcela, Genedani. Beh, sicuramente, perché dal punto di vista economico le nostre imprese, ma oserei dire tutte, sono in grandi difficoltà a coprire la spesa corrente. La spesa corrente per continuare a viaggiare e nel contempo sostenere i finanziamenti stipulati negli ultimi anni, in primis per rinnovare il parco veicolare con mezzo meno impattanti. Noi su questo tema già 15 giorni fa avevamo, come Confartigianato Trasporti, inoltrato delle richieste volte a rafforzare la liquidità aziendale in questo momento, che, diciamo, oserei dire essenziale, sanguina. Avevamo chiesto di sospendere i pagamenti dei contributi, sospendere i versamenti dell'IVA, sospendere quello che sono i pagamenti di tasse dei vari balzelli che abbiamo come aziende, e soprattutto anche che le banche concedino una liquidità per poter sopperire e andare avanti e pagare il corrente. Nel contempo si chiedeva anche di bloccare con una moratoria i finanziamenti, leasing e tutto quello che si è fatto fino ad oggi, almeno fino al 31/12 del 2020. La situazione, che è molto difficile, porterà anche a incassare meno in questi periodi, perché stiamo lavorando con grandi difficoltà e anche consapevoli che qualche fornitore non riuscirà a pagarci perché avrà gli stessi problemi che abbiamo noi. Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti, ci ha parlato dal modenese. Grazie e forza. Forza a tutti, teniamo duro, come ho detto prima, teniamo botte, andiamo avanti, e un grazie a tutti a chi si sta facendo, come si suol dire, di sacrifici al di sopra di ogni aspettativa. C'è poi la questione degli autotrasportatori bloccati all'estero da giorni in seguito alla chiusura delle frontiere, soprattutto nell'Europa dell'Est. Ci segnalano situazioni molto critiche dal governo italiano, l'appello agli altri paesi affinché venga ripristinata la circolazione delle merci. Nel fine settimana in particolare ci sono stati contatti tra la nostra ministra De Micheli e i suoi omologhi di Ungheria e Slovenia, e ieri in serata è arrivata la notizia della riapertura della frontiera con la Slovenia. Ora ricapitoliamo i provvedimenti assunti negli ultimi giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ministero che oggi e domani è chiuso per interventi di sanificazione dopo che ieri un dipendente è risultato positivo. Le attività proseguono nelle sedi distaccate della capitale. Ecco appunto i provvedimenti. A partire da ieri sono stati sospesi i divieti domenicali sulle autostrade per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezza impegnati nei servizi internazionali. Aggiungiamo che venerdì scorso l'Austria ha sospeso i divieti di transito al Brennero durante i fine settimana fino al 29 marzo. Poi i collegamenti con la Sardegna proseguono, ma solo per le merci e non per le persone. I termini per sostenere le prove d'esame per la patente di guida sono stati prorogati al 30 giugno. È stata prorogata sempre alla fine di giugno la validità della carta di qualificazione conducente, dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e del permesso provvisorio di guida. E ora un'altra testimonianza dal mondo dell'autotrasporto, l'abbiamo registrata nei giorni scorsi al terminal VTE di Pra, siamo nel porto di Genova, dove le operazioni si sono svolte a singhiozzo e a rilento per le procedure doganali diventate più stringenti e per gli interventi di sanificazione. In mezzo a tutto questo gli autotrasportatori costretti ad attese infinite in cabina o sui piazzali tra mille rischi, così uno di loro si chiama Pino Gidari. All'ufficio merci di Genova Pra Voltri c'è un ammasso di persone per poter espletare la documentazione doganale, che fa paura, quindi sotto l'acqua a 30 centimetri l'un dall'altro ci sono centinaia e centinaia di camion, se non migliaia, all'interno del piazzale del terminal UTE. Ricordo, questa testimonianza non è di oggi ma di qualche giorno fa, ben riassume però le condizioni di lavoro degli autotrasportatori su un altro fronte aperto da questa emergenza, che è appunto quello dei porti. Nei porti andiamo con Luigi Merlo, presidente di Feder Logistica Conftrasporto. Buongiorno Merlo. Buongiorno a voi. Allora, com'è la situazione nei nostri scali? Il grosso problema è la mancanza dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori dei porti, che giustamente hanno chiesto di avere a disposizione tutti gli strumenti, mascherine, guanti per poter operare in tranquillità, e ci auguriamo che dopo l'accordo tra governo e sindacati questo possa avvenire, però i dispositivi faticano ad arrivare e quindi le difficoltà sono operative. Tra l'altro è un paradosso, perché proprio in questo momento i traffici, soprattutto dall'Asia, stanno ripartendo e quindi rischiamo, come dire, un rallentamento e un blocco per ragioni di carattere operativo. Il fatto che il traffico dall'Oriente stia riprendendo vale anche come un segnale di incoraggiamento, indubbiamente, ma è possibile stimare il calo registrato su questa rotta dall'inizio dell'emergenza? Per calcolare gli effetti bisognerà aspettare fine di marzo, perché ci sono state due concomitanze, il capodanno cinese e poi il coronavirus proprio in quel paese asiatico, e quindi i carichi sono partiti molto in ritardo, se calcoliamo anche 15-20 giorni di navigazione, quindi gli effetti li capiremo alla fine del mese, però potrebbero essere questi recuperati. I problemi ce li abbiamo ora sugli altri mercati, capire cosa succederà con gli Stati Uniti, ma anche sui mercati infraeuropei e africani, che per il momento non hanno risentito degli effetti. Abbiamo problemi operativi, ahimè, per gli equipaggi all'estero, per i cambi di equipaggio, e per quel che riguarda in Italia, perché spesso, come dire, molte navi straniere non vogliono far salire il pilota a bordo o le autorità italiane, quindi anche questi elementi stanno generando confusione e anche disagio rispetto alla operatività dei nostri porti. Luigi Merlo, presidente di Federlogistica, Conftrasporto, Confcommercio, grazie e buona giornata. A voi. Oggi hashtag Autotrasporti finisce qui. Da parte mia un saluto particolare a tutti gli operatori della logistica impegnati su uno dei fronti più difficili e importanti di questa emergenza, come appunto abbiamo raccontato. La mia, la nostra gratitudine e un incoraggiamento reciproco per uscire da questo incubo. Ora il GR, un abbraccio da Andrea Ferro. Forza! Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.